4A. Ascolta e rispondi. Dove sei andato? Sono andato al cinema. Dove sei rimasto? Sono rimasto a casa. Dove sei ritornato? Sono ritornato al mare. Dove sei andata? Sono andata al cinema. Dove sei rimasta? Sono rimasta a casa. Dove sei ritornata? Sono ritornata al mare.